Nausicaa nella valle della rete. Quello che la mamma non poteva dirvi su internet, anche perché non lo sapeva, ogni martedì alle 11.30. Mitsume au hitomi to hitomi, nukumori wo shinji au.